Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Buongiorno e benvenuti, è arrivato il nostro momento. Oggi a Questa casa non è un albergo si parla di mamme, la nostra festa. E qua in studio con me il mio inquilino che è un papà, Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutte le mamme. Lasciami dire alla mia mamma, ho una magnifica compagna di vita che è una mamma splendida, alla mia collega di trasmissione che è mamma e ci porta tutta la sua mammità in trasmissione. A volte troppa mammità, vero? Vero, sono proprio una mammona. Senti, io direi che per cominciare ci facciamo fare gli auguri da una ragazza che, pensate, alla sua mamma ha dedicato una canzone dolcissima. Allora saluto Arisa, buongiorno e benvenuta. Ciao a tutti. Senti Arisa, abbiamo pensato a te non solo perché tu ormai sei quasi diventato un tormentone, gradevole ma sempre tormentone, di te si parla, ti si vede, finisci addirittura nei siti in cui si parla di moda, ma abbiamo pensato di coinvolgerti perché tu alla tua mamma hai dedicato una canzone. Sì, io amo molto la mia mamma, quindi... tanti auguri a tutte le mamme del mondo, a quelle che già lo sono, a quelle che lo saranno, e insomma a tutte le persone che hanno un forte istinto materno. Nella canzone Io sono di Arisa c'è questa frase che farà felici tutte le mamme all'ascolto: voglio essere mamma perché la mia mamma è la più bella che c'è. Ma se tu ce la canti, Arisa, le nostre mamme sono più felici. Ce Io lo puoi fare prima. Questo regalo? Ok, me la canto. Io sono una donna che crede all'amore, che vuole il suo uomo soltanto per sé. Voglio essere mamma perché la mia mamma è la cosa più bella che c'è. Mi piace il Natale, domenica al mare, poi alzarsi da tavola verso le tre. Perché la famiglia a me mi meraviglia, mi piglia, vorrei farne una da me. Arisa, grazie soprattutto da tutte le mamme che ci hanno ascoltato questa canzone cantata in diretta. Grazie, buona giornata e buona festa. Buona giornata anche a voi, auguri ancora. Ciao. Alberto, tra l'altro, Arisa ha scritto una canzone per la sua mamma, tu per le mamme non hai scritto canzoni, tu che scrivi filastrocchi, testi di canzone dedicate anche ai Bulli Citrulli, alle Niente. Mamme non ci hai pensato. Però lo farò presto. Mi raccomando. E in fila anche le mamme di Questa casa non è un albergo. Di sicuro. Mi raccomando, un pensiero per loro. Ma intanto noi andiamo a trovare un'altra mamma che ha pubblicato un libro dal titolo già che la dice lunga. In linea con noi abbiamo Paola Maraone. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ha pubblicato un libro per Rizzoli e il titolo è Ero una brava mamma prima di avere figli. È una guida pratica per sopravvivere al primo anno di vita del bambino, che in questi tempi può essere davvero duro, ma io direi di, Alberto, se tu sei d'accordo, di sentirne un breve estratto che coglie un po' l'atmosfera che si legge nelle pagine che tre del libro e poi lo commentiamo insieme. Si nasce come madri nel momento in cui nasce il proprio figlio. Di lì in poi è tutto da imparare. Essere madri oggi angoscia molto più di un tempo. Non perché il mondo fuori sia diventato più cattivo o più pericoloso, ma perché le donne che lavorano sono oberate dai sensi di colpa e dall'ansia di non essere abbastanza brave. In realtà, la combinazione di attività lavorativa e maternità non è un fenomeno nuovo. Ad andare perduta è stata, nel corso dei decenni, quella forma di naturalezza e di saggezza materna che rendeva l'esperienza di un figlio molto meno ansiogena. Nei primi mesi di vita del neonato, qualunque donna, se lasciata libera di respirare allo stesso ritmo del suo bambino, è in grado di trovare il giusto passo per accudirlo nel modo migliore. Che è il modo migliore per quel bambino e non per un altro. Un po' di buon senso e poi quiete, silenzio, tranquillità, pressioni dall'esterno scarse o nulle. Quasi sempre basta questo. Convincersene non è così facile, ma vale la pena provarci. Beh, sicuramente vale la pena provarci, Paola Maraone, tanto che lei ci ha provato ed è andata benissimo. Sì, è andata benissimo con qualche naturale e inevitabile incidente di percorso. Il fatto è che a ripensarci adesso, davvero, dico, mi viene da sorridere, io ho due bambini, una di 4 anni e l'altro di 6 mesi, ma prima che nascesse la mia primogenita non avevo mai tenuto in braccio un neonato. Del resto ho scoperto di essere in buona compagnia, so che le statistiche dicono che un terzo dei neogenitori non ha mai maneggiato un bambino piccolo prima di avere il proprio, insomma, e quindi davvero quello che ci si apre davanti è un mondo nuovo, inaspettato. E questo credo sia un po' il segreto anche di questo titolo che ci ha incuriosito molto, Ero una brava mamma prima di avere figli. In qualche modo ci immaginiamo tutti che l'esperienza della genitorialità sarà un viaggio bellissimo, poi quando abbiamo in mano quel bambino così delicato, così particolare, insomma, cominciano le ansie, cominciano i pensieri. Ne racconta tanti nel suo libro. Ci vuole far sorridere con un episodio della sua vita personale? Per esempio, io non avevo alcuna idea di come si potesse far addormentare un neonato e avevo in mente che appoggiando il bambino, so che questa cosa sembra banalissima, ma credevo che appoggiando il bambino nella culla e accarezzandogli la testa lui si sarebbe addormentato nel giro di pochi secondi. Come Ciccio Bello, perché abbiamo giocato con Ciccio Bello, lo mettevamo giù ed era pronto e poi tiravamo su e giocavamo di nuovo. Invece non è così, ma non solo abbiamo giocato con Ciccio Bello, abbiamo visto tanti film in cui, peraltro avrete notato anche voi, quando si vedono le mamme che partoriscono hanno in realtà in mano dei piccoli Buddha di 4 o 5 mesi che pesano 8 kg e che sorridono e basta, mentre un neonato è davvero una cosa diversa, ecco. E questo è stato il primo scoglio. Il secondo è l'allattamento. Adesso si parla tanto di allattamento al seno, che è indubbiamente la cosa migliore per il bambino, eccetera, eccetera, eccetera. E anche per la mamma, posso aggiungere? E anche per la mamma, ma non è come dirlo. Io ci ho messo 2 settimane per capire come fare e alla fine ci sono riuscita grazie all'aiuto di una preziosissima consulente di quelle della Lega del Latte. Guardi, abbiamo proprio dedicato, abbiamo nei giorni scorsi a Essere Benessere, la mela al giorno, il nostro appuntamento col benessere, proprio all'allattamento, e l'ostetrica che è intervenuta ha sottolineato come sia importante per la mamma che si trova in difficoltà nei primi giorni con l'allattamento a farsi aiutare da persone esperte. Comunque, Paola, direi che poi è andata meglio con la seconda o col primo? Meglio con il secondo, che è un maschietto, la prima è una femminuccia, perché lì davvero tutto ti viene più naturale, hai già l'esperienza del primo. Tra l'altro, un altro problema secondo me quando si diventa genitori è quello del riconoscimento del proprio figlio. Non è come dirlo, a me quando è nata la primogenita hanno chiesto poche ore dopo il parto: saresti disposta a uccidere per lei? Dove chiaramente la domanda era una provocazione, e io ho guardato questo fagottino e ho detto forse no, c'è tutta una fase di adattamento reciproco in cui in effetti si impara ad amare il proprio figlio, e con il secondo l'esperienza riesce più facile perché hai già la memoria del primo e sai quel che diventerà tuo figlio, ma tuo figlio non è ciò che era quando è nato, insomma, cambia col tempo assieme a te. E noi, infatti, Alberto, è una sua frase che secondo me la dice molto lunga, quando dice: un papà nasce insieme al suo bambino, nasce un papà e nasce una mamma, naturalmente. Questa casa non è un albergo. Una puntata oggi dedicata alle mamme e anche ai papà, Alberto. Di solito li trascuriamo quando parliamo di mamme, e invece anche oggi dobbiamo dare loro voce. Sì, e devo dire, proprio ascoltando Paola Maraone, che poi in mezzo comunque a tutte le difficoltà, voi mamme siete molto fortunate perché riuscite proprio a mettervi assieme, a fare un cerchio. Vero e proprio cerchio delle mamme che vi riesce naturale, mentre per noi papà è così faticoso. Infatti noi siamo qua per insegnarvelo, le mamme insegnano ai papà. E io ho sempre in mano la penna, pronto a prendere appunti. Io direi, sentiamo che cosa ha scritto un uomo della sua compagna che lo ha reso padre. Camilla era così bella. I chili in più le donavano. La pelle più morbida, le labbra più evidenti, il seno più grosso. Le donne dovrebbero essere sempre in attesa. La gravidanza dona loro una luce più bella e un alone di sacralità che le rende invulnerabili.